Radio 24 Reportage. La logistica del futuro, il ritorno dei treni merci, di Andrea Ferro. Al mondo siamo tra i principali paesi esportatori. Nelle varie graduatorie veniamo dopo autentici colossi come Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania e poi ce la giochiamo con la Francia, i Paesi Bassi e la Russia. Insomma, per tradizione e vocazione manteniamo un marchio, un prestigio che in molti settori proiettano il Made in Italy ai vertici dell'eccellenza. Però poi fatichiamo più di tutti a far circolare il frutto del nostro lavoro, le nostre merci o quelle che transitano sul nostro territorio seguendo le rotte mondiali. Declinando il ragionamento in termini scolastici, potremmo dire che se per capacità, idee, genialità e qualità la nostra pagella è zeppa di bei voti, ad abbassare la media ci pensa una materia nella quale non siamo mai stati particolarmente preparati o, per meglio dire, abbiamo faticato ad applicarci con metodo. Questa materia si chiama logistica, cioè, in estrema sintesi, l'insieme delle attività che garantiscono il trasferimento delle merci da chi le produce a chi le riceve o le consuma. Recentemente, misurando l'indice delle performance logistiche, la Banca Mondiale ci ha assegnato la 21esima posizione. Tra i paesi della cosiddetta vecchia Europa, solo la Spagna ci sta dietro, in testa c'è la Germania che distacca tutti. È stato calcolato che se il nostro sistema logistico funzionasse come quello tedesco, il paese guadagnerebbe qualcosa come 10 miliardi all'anno, praticamente l'ammontare di una manovra finanziaria. L'inefficienza logistica si calcola attraverso vari parametri immateriali e fisici. Tra i primi ci sono i passaggi burocratici, i tempi delle pratiche doganali, il tracciamento delle spedizioni, le reti organizzative, la qualità dei servizi. Per parametri fisici si intendono le infrastrutture, cioè fin troppo semplice, i porti, le strade, la rete ferroviaria. Ecco, per raccontare il deficit logistico che rischia di impoverire la nostra economia, in questo reportage concentriamo l'attenzione su quella che è stata definita la disconnessione dell'Italia, cioè negli anni la mancanza di un'idea strategica che legasse le varie modalità di trasporto nel segno dell'efficienza, sfruttando la posizione geografica favorevolissima. Praticamente siamo una piattaforma allungata verso il centro del Mediterraneo. Intermodalità, comodalità, vorrebbe dire che via terra le merci un po' viaggiano su gomma, poi proseguono sui binari e magari tornano sui camion per compiere l'ultimo miglio. Meno emissioni, più efficienza, maggiore sicurezza, è la strada intrapresa da alcuni paesi già da un po' di tempo, da noi invece si arranca. C'è un dato su tutti che spiega perché. In Italia nel 2015 solo il 7% delle merci ha viaggiato su rotaia. Tra i 28 paesi dell'Unione Europea siamo agli ultimi posti. La sfida, insomma, è recuperare in fretta il tempo perduto. Tra gli obiettivi che si è posta la struttura tecnica di missione istituita un anno fa presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il rilancio dell'intermodalità figura tra le priorità. Sentiamo il coordinatore della struttura, il professor Ennio Cascetta. Intermodalità, ci siamo veramente? Ma io penso che ci siamo come volontà, non ci siamo ancora come risultati. Quest'anno il treno, diciamo la ferrovia in treno, è aumentata del 3% dopo anni in cui ha solo perso, ma l'obiettivo è di aumentare del 50% in 5 anni, un obiettivo ambizioso al quale stiamo dedicando non solamente risorse economiche importanti come quelle del ferrobonus e il mare bonus, ma un'attenzione direi veramente ai particolari, ai regolamenti, al macchinista interinale, al macchinista unico, alla possibilità di fare manovre nei porti non necessariamente con un'altra azienda. Insomma, stiamo cercando di rendere possibile l'intermodalità e addirittura conveniente l'intermodalità. Ecco, quella è la chiave. Quando sarà conveniente avremo dei numeri e delle percentuali paragonabili a quelli dei paesi europei logisticamente più avanzati. Il professor Ennio Cascetta ci ha spiegato le linee guida sulle quali un sistema di trasporto integrato intermodale può e deve affermarsi. Oltretutto ci sono anche precisi obiettivi fissati dall'Unione Europea. Entro il 2030 il 30% delle merci dovrà viaggiare via ferrovia, addirittura il 50% nel 2050. Come è stato detto prima, oggi in Italia la quota è sotto il 10%, insomma bisogna correre più con la testa che con le gambe però, nel senso che una rete efficiente va costruita su un insieme di interconnessioni. Per intenderci, si può realizzare la ferrovia più moderna e più veloce al mondo, ma se poi mancano i raccordi con i porti è come un'autostrada senza caselli. A questo proposito sentiamo ancora il professor Ennio Cascetta. L'ultimo miglio è il nostro mantra. Stiamo guardando porto per porto cosa serve per collegarlo meglio alla ferrovia. Anche qua, con un altro dei nostri mantra che si chiama priorità, cioè non tutti i porti sono uguali, non tutti i porti hanno la stessa vocazione a far traffico merci. Abbiamo dei porti come Trieste che sono campioni europei di traffico intermodale e traffico merci. Non tutti gli altri porti italiani hanno bisogno di raggiungere gli stessi livelli e quindi cominciamo a curare i raccordi su quei porti dove il traffico merci veramente delle grandi potenzialità. Cito un nome per tutti, Livorno. Insomma, sulla strada dell'intermodalità il ritardo si è accumulato nel tempo, stratificando i suoi effetti, incidendo pesantemente sulla competitività del nostro sistema paese. Secondo un rapporto presentato recentemente da Confcommercio e Conftrasporto, tra il primo trimestre 2014 e il secondo trimestre 2016, in termini di crescita di PIL, l'Italia è al 24esimo posto tra i 26 paesi inseriti nella graduatoria. Tra i fattori che ostacolano la ripresa, la logistica è tra i principali. Ascoltiamo Mariano Bella del Centro Studi di Confcommercio. Perché siamo al 24esimo posto su 26 paesi negli ultimi tre anni? Perché i nostri imprenditori non sono capaci? Perché i nostri lavoratori non sono capaci? Perché non abbiamo capitale? No. Perché abbiamo difetti strutturali che danneggiano la nostra economia, eccesso di carico fiscale, burocrazia, legalità e logistica. Quindi la logistica, i trasporti e la mobilità vanno rilanciati attraverso gli investimenti, c'è poco da fare, per avere una spinta che deriva dalle condizioni fondamentali di produttività. Tutti ci lamentiamo di produttività, come fa a crescere? Con la logistica e con i trasporti migliori. Ma non tutto va male, anche da noi esistono isole felici per quanto ben zavorrate sulla terraferma, esempi sui quali costruire l'inversione di tendenza dimostrando che per quanto impegnative le sfide si possono affrontare. Come sempre a fare risultato è la strategia di gioco che coinvolge tutta la squadra. Come abbiamo sentito l'esempio più virtuoso è il porto di Trieste, scalo leader per traffico di merci via ferrovia. Sentiamo il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino. Noi oggi siamo a un 40% di traffico ferroviario in porto, naturalmente per la parte terrestre, e addirittura abbiamo, io penso, uno dei terminal più performanti del mondo. Noi abbiamo il Molo Sesto che ha una percentuale di traffico ferroviario in entrata e uscita dal molo del 91%. Io penso che a livello internazionale non esista nessun terminal terrestre, ferroviario, marittimo che abbia una performance di quel tipo. Chiaramente io penso però che ci siano tutta una serie di elementi positivi anche a livello nazionale. C'è una RFI oggi che ha le idee chiare e che sta aiutando, ecco, tutto il territorio nazionale a crescere e a creare le precondizioni per poter creare uno sviluppo della ferrovia in generale e dell'intermodalità in particolare. RFI sta lavorando molto bene, sta lavorando molto bene anche insieme a un ministero che finalmente ha una struttura tecnica di missione che entra in particolare nella funzione delle infrastrutture. Non c'è una costruzione, una pianificazione delle infrastrutture fine a se stessa. Cioè, una volta secondo me c'era proprio una logica di costruzione proprio per la costruzione. Per rianimare il traffico merci via ferrovia all'interno di un sistema autenticamente intermodale, insomma, occorre una strategia complessiva che prenda spunto dagli esempi virtuosi e possa articolarsi attraverso una rete infrastrutturale adeguata. Per le merci non è tanto una questione di velocità, ma di capacità. Ce lo spiega meglio Guido Porta, vicepresidente di Fercargo, l'associazione delle imprese ferroviarie private. Io credo che con le modifiche infrastrutturali che il governo ci ha promesso riusciremo a fare un'inversione di tendenza. L'obiettivo è di arrivare al 2030 al 30%, non è facilmente raggiungibile, però ci stiamo lavorando tutti. Treni più pesanti e più lunghi consentono di fare efficienza, sagoma 4 metri, di essere più efficienti rispetto al naturale competitor che è il camion, ma non il camion in senso autotrasportatore, in senso proprio come modalità. Perché la sfida poi in realtà non è un conflitto tra le varie modalità, ma è l'intermodalità. Un'integrazione fra le varie modalità in modo che il camion, camionista, l'autotrasportatore, l'impresa di spedizioni che mantiene il rapporto col cliente sceglie di usare per un certo tratto non l'autostrada ma il treno. Necessaria una rete di raccordi o una serie di raccordi adeguate, perché poi il problema spesso c'è la linea ma poi non c'è la possibilità di far avvicinare i camion. Secondo me è importante creare dei sistemi di trasbordo strada ferrovia molto snelli e diciamo distribuiti sul territorio. L'interporto per come è oggi un'area a sé stante dalla rete ferroviaria è un punto che necessariamente non crea efficienza. Se invece si riesce a creare un po' come, cioè io vedo il camion che sale sul treno come, con la stessa facilità quando va a fare il rifornimento di gasolio, cioè si mette lì in una stazione di servizio, dietro la stazione di servizio ci dovrebbe essere il treno che carica per 100, 500, 600 km, 800 km. Prima che tutto questo possa materializzarsi occorrono anni. Nel frattempo il rilancio dell'intermodalità può passare dallo sfruttamento di un'opportunità, quella cioè di far circolare i convogli merci sulla linea ad alta velocità Torino-Napoli, chiaramente nelle ore notturne per non interferire con il traffico passeggeri. Maurizio Gentile è l'amministratore delegato di RFI. Stiamo portando avanti questo progetto con una impresa ferroviaria, l'unica finora che ci ha chiesto di poter utilizzare la linea ad alta velocità per il trasporto delle merci. Ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, è una condizione che deriva proprio da come queste linee sono state costruite. Ovviamente la linea ad alta velocità pura, così come la conoscono tutti coloro che usano i treni ad alta velocità, è anche alta capacità non solo perché può consentire il transito dei treni merci, ma anche perché è fortemente interconnessa con i sistemi invece della rete convenzionale. Ed è un uso integrato ed intelligente di questi sistemi interconnessi che consentono poi di utilizzare bene anche la linea ad alta velocità per le merci. 2018 quindi. 2018. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.